I trans, l'ha frequentato i trans? Ma io dalla mia voce penso che... Ma che discorsi fa? Ma perché i trans, che c'è di male? Mica sarà razzista nei confronti dei trans? Che male hanno fatto i trans? No, per l'amor di Dio, ma non può... Ma cosa cerca di cosa? Se io ma non balbetti, non si preoccupare, l'ha fatto i trans o no? Ogni no, tanto... Baldracche sì, ma trans no. Baldracche sì, trans. Senti come parla, poi siamo noi volgari. Io insomma, la zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on presidential ticket in the history of the nation. 74 million. Se fosse un sapore, avrebbe il sapore della menta questo pezzo, secondo me. O della mandragola, o del fico sacro, o dell'incenso, o della betulla, o della canfora. Non lo so che sapore avrebbe, ma sicuramente un sapore strano, indefinito. Immagino già la scena, lunedì mattina Giuseppino Cruzani entra in ufficio e la prima cosa che fa è schiodare la gigantografia di quel porco di Trump dal muro dietro la sua scrivania. È ancora lì. Vai Giuseppe, schiodala e buttala nel cesso. No. E visto che ci sei, buttati anche te nel cesso e tira l'acqua. Cruciani! Mi scuso, ma velocemente, lei me lo dice Biden o Trump? Trump. Perché? Lui ha prodotto lavoro per... No, perché hai sempre... Sempre lavora! Non ho altro da aggiungere. Il collegamento dal luogo indefinito in mezzo alla tundra, alla campagna toscana, non si capisce perché, contravvenendo a qualsiasi regola, del DPCM, zona gialla. David Parenzo, applausi. No, sono ancora in assoluta zona gialla. Domani tornerò a Roma, ma dico semplicemente che l'America è il grande paese, la grande nazione libera. Adesso ci arriviamo. È di esempio a tutti noi. Paese libero. Viva Biden. Quando eleggono Trump, paese libero. Non è un paese no, libero. Uguale. Quando eleggono ugualmente. Biden è un paese libero. Vergogna. Ma ci mancherebbe. Ma dal suo lettone, comodamente adagiato su questa minchia di letto, mollemente adagiato Alberto Gottardo. Che se potesse parlare come me ne avrebbe anche un bel po' da raccontare, sì, in questo però, luogo dirti, sempre più sicuro. Posso dirti una cosa? Le tue cronache dei tuoi esperimenti, diciamo chiamano dei tuoi tentativi sessuali in quella stanza. Non ci sono graditi. Bocca mia, taci perché potrei smontarti con quattro parole. No, tu quello tutte cose. Io scriverò un libro. Io scriverò un libro verità. verità su Giuseppe Cruciani visto da vicino, e ne vedremo delle belle, altro che nudi. Il mio, ma quando il l'hai mio visto da vicino, venderà, scusa, molto di quando più. No, visto? No, ma mica io. Che mica cazzo io, c'entra adesso? Parlavamo delle scopate tue. Caro, hai ribaltato la cosa. Comunque, ragazzi, finalmente è iniziata una nuova era. Ma è cosa, quali scopate? Aspetta. Il suo pisellino è studiato nell'istituto di microbiologia. All'istituto, sì, di microbiologia. Ma il mio pisellino non hanno tagliato un pezzo, caro mio. Il mio a me hanno dovuto integro, tagliarlo per ragioni di dimensione. Per ragioni di dimensione ha tagliato. Giù, il tuo due, si giù, studia. Giù. Finalmente, ragazzi, si respira una nuova area. È iniziata una nuova era. È finito il fascismo, il nazismo. È caduto il cinghialone. Sembra il 25 aprile. Gente che stappa champagne, attori, gente famosa. Americani. Siete di una faziosità. Siete di una faziosità che io non ho mai visto in vita mia. Noi, come noi. Voi, ma voi detto, non succede, aspettavate. Ma se succede. Certo, ma io esplicitamente lo dicevo. Ma io l'ho sempre detto esplicitamente. Anch'io. Siete di una ho faziosità. Biden. Di un Biden tifo. Harris. Schifoso, vi nascondete dietro la vostra imparzialità. Ma come? Siete incredibili. Trump, siete chi? Porro, io sempre detto fammi Biden, sentire Porro, certo, sul 25 aprile. Senti. Un altro che è per Trump. Senti, va bene, va benissimo. Ma come si fa a dire 25 aprile, ragazzi? Dai, come si fa a dire chi ha detto che c'è la liberazione? Dai, su. E chi l'ha detto? Siete patetici, dai, siete ridicoli, dai. Non c'è stata la liberazione da un cazzo, su, dai. Se oggi il direttore della stampa riesce a scrivere che la vittoria di Biden in America rappresenta il 25 aprile dell'America e del mondo, è uno che non sta bene. Ha ragione, cioè, proprio da un punto di vista culturale, cioè il 25 aprile del mondo è la sconfitta di Trump, che per l'altro l'altra volta ha vinto democraticamente. Siete una vergogna, avete preso questa cosa dire come la fine del mondo. Se non vinceva, se vi rivinceva Trump, sarebbe anche stata la fine del America mondo. È il risultato. Ma anche in America è stato preso. Però, così, ragazzi, il risultato. Noi basta abbiamo i problemi di casa nostra. Ora io dico, che speranza possiamo avere noi nella vita di sopravvivere non a questa roba speranza, qui? Speranza, no, speranza per carità. Che tipo di quante speranze? Lo dico Fauci, a plurale. Avere Fauci, ma stai zitto un attimo, stai muto un attimo. Chi cazzo è sto? Ma chi se lo incula? Quante speranze possiamo avere? Uno dei più grandi se il governo mondiali a un certo punto, se il governo a un certo punto ha affidato tutto a signori di questo tipo. Uno è stato ex commissario, a parte che cazzo serve il commissario al Covid, all'emergenza Covid in Calabria. Ci sono 45.000 funzionari regionali, ne scegliessero uno per fare il commissario. No, hanno scelto un ex generale dei Carabinieri. E qui si potrebbe discutere sugli ex generali dei Carabinieri. Certo. Perché una volta finito il percorso nell'arma, uno deve diventare così? Cioè, perché uno all'improvviso diventa? Questo mica si chiama tutti pappalardo, questo si questo si avvicina, cioè. Però questo si chiama Cotticelli, il quale non ha fatto nulla, non ha fatto il piano anti-Covid, eccetera, lo dice chiaramente arrampicando sugli specchi davanti a una telecamera, ma non è finita dopo, e sentiamo. Lei a giugno si accorge che non c'è il piano Covid. Esatto. E cosa fa? Faccio un quesito al ministero e dico: chi è che deve fare il programma operativo Covid? Ce l'ha qui questo parere? Il parere ce l'abbiamo. Lo vediamo? Sì. Maria? La devi finire, tu devi andare preparato quando vai. Dammi il parere del ministero. Devi andare preparato. Devi andare preparato. Tu la segretaria. 27-10 Ministero della Salute, dell'Economia e delle Finanze. E cosa le dicono? Chi deve farlo sto piano? Chi lo deve fare sto piano? Lui. E non l'ha fatto. Senti. Dice, nelle regioni sottoposte a piano di rientro e commissariato, cioè la Calabria, il potere e dovere di predisporre e adottare il programma operativo COVID-19 compete esclusivamente alla struttura commissariale. Cioè a lei, a lui. 2 milioni di cittadini calabresi non hanno un piano Covid perché il ministero le ha risposto con 3 mesi di ritardo. Non è così, dottore. E allora cos'è? Allora perché non c'è il piano? Il piano lo sto realizzando la settimana prossima. Ma quella è regione rossa, il piano anticovid lo sta realizzando. Siamo in mano a questa gente. Li avete voluti voi, nominato da Conte. Ma infatti lo hanno destituito. Nominato da Conte. E dalla Lega. E dalla Lega. Riconfermato dopo. Conte che dice che lo licenzia subito dopo. ma dovrebbe licenziare se stesso, ma dovrebbe licenziare altro. Chi lo ha nominato questo qua, chi lo ha controllato, chi lo doveva controllare se aveva fatto o no questo cazzo di piano anti-covid, chi lo controllava, chi lo ha nominato. A proposito di piano anti-covid, David torna a Roma velocemente perché la Toscana diventa arancione in queste ore, per cui domani mattina sarò cacciato da qui. Senti, il Veneto che succede? Il Veneto non si capisce. Veneto giallo, Abano sicurissima. Vai. Si rende conto che questa è una cosa grave? Che cosa le devo rispondere sotto? Domani mattina io sarò cacciato da qui. Pure. Domani mattina sarò cacciato da qui. Assomigliava a Salvini dopo il mojito. A un certo punto poi chiede informazione, ma chiede informazione all'usciere. Vabbè, disastroso. Ex generale dei carabinieri, amico mio, io mi sarei nascosto invece di andare da Giletti. Poi è andato pure da Giletti, in cui ha detto di essere praticamente stato quasi drogato. O sì, comunque ha detto di non essere, di non riconoscersi in quel video, che era stava male. Questo lo dico anch'io. Non mi riconosco. Io lo dico anch'io, sì. Non mi riconosco. In questi 10 anni di Zanzara non sono stato drogato. Io dirò sempre questo: sono stato drogato. Sì. Cruciani mi ha drogato. In questi, ma chi deve fare questa Zanzara? Chi la deve fare? La devo fare io? No, sono stato drogato. Ma l'usciere che diceva? Aspetta. Quindi ci sono, io, ci sono. Quanti, ci voi, sono, non ci quanti sono, posti sono, letto di terapia intensiva abbiamo attivato, Marie? Secondo il nostro... Com'è? Quanti posti letto abbiamo attivato? Del piano. Maria, quindi non mi faccia fare la figura del coglione là, dottore. Ma io voglio sapere, non quelli che sono previsti nel piano, quelli li so. Io voglio sapere quelli che sono attivi oggi. Vuoi sapere quanti posti letto in terapia intensiva? Questo. Già attivati, io sapere, ci sono. Ma lui oggi, lo deve sapere, il commissario! La fonte di questa informazione qual è? No, io faccio un altro mestiere, faccio l'usciere. Fa l'usciere. Ma come l'usciere? Ma l'usciere deve fare il commissario a questo punto. L'usciere deve fare il commissario, lui deve farlo. Arezzo, sei un portasfiga! La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Arezzo, voglio morire di Covid, no di miseria! Te la auguro la miseria, così la provi! Grande. Coglione! Grande Vilma, la grande Vilma, la grande Vilma, tua acerrima nemica, la grande Vilma. Ma non so chi sia. Io ho Esther, mia nemica, Esther da Milano. Tu hai Vilma, una signora che esplode contro di te. Ma è una spostata, Comunque, ragazzi, questo gioco del Conte che chiama il colore, è veramente una roba, ragazzi. Penosa, posso dirti una cosa penosa? Il lockdown totale. No, ma è una roba penosa. Solo tu rimasto solo tu ad appoggiare questo governo. Qual è l'alternativa? Ma io non appoggio niente, valuto i singoli provvedimenti. Allora, in questo caso, qual è l'alternativa? Ma non lo so qual è l'alternativa. Vivere e avere posti in terapia intensiva. Non lo so. Considerare vivere sui banchi a rotelle, sui sedi a rotelle, sui letti a rotelle nelle terapie intensive, cosa che non è stata fatta. Fermi tutti, i commissari come quelli in Calabria, dove cazzo vuoi andare? Appunto, allora ragazzi, come fai a difendere il governo di fronte a sta roba qua? Allora, ma Speranza dov'era? Speranza dov'era? Infatti ha sbagliato. Aveva un commissario. Aspetta, amica, finita. Invece di scrivere il libro per Feltrinelli. Fermi tutti, allora passeranno in zona arancione l'Abruzzo, l'Umbria, la Basilicata, la Liguria e la Toscana, così dicono le indiscrezioni. Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana, sì, però non è che c'è grande differenza tra arancione e gialla, cioè. Beh, insomma. Beh, sì, qualcosa sì. Intanto blocchi il passaggio tra regioni. Sì, può essere. Allora, ragazzi, fermi tutti. La storia della Calabria non è finita. Non è finita la storia della Calabria. Signor Cotticelli, vada a Giletti, senti. Cotticelli. Sembrava la mia controfigura, dottore. Io non so in quel momento che cosa mi sia successo. Nominato dalla Conte. La mia famiglia non mi ha riconosciuto. Capisci? Io stesso non connettevo, dottore. Non connettevo. Il piano anti-Covid l'ho fatto io. non connettevo. Tu devi rispondere così, Parezzo, davanti a qualcuno che ti chiede in questi anni di Zanzara, no, certo. Io non connettevo. Sì, io la non mia famiglia non mi riconosceva. La Zanzara non l'ho fatta io. Mi dicevano: ma cosa fai? Cosa fai? Aspetta, io aspetta. Non connettevo, dottore, io non connettevo. Io non mi riconosco in quell'intervista. Non so anch'io, che cosa sia successo in quella trasmissione. Sto cercando anch'io di capire con un medico se ho avuto un malore. Ho avuto qualche altra cosa. Sei semplicemente sei semplicemente un incapace. Non è, sei semplicemente uno che io se sono ne sono dieci anni che ho malori. Dieci senti, anni senti, che ho malori. Ho passato una notte terribile. Senti, senti. Sì, cosa anch'io ho passato dieci anni terribili. Dieci senti anni. Io ero in uno stato confusionale su cui sto indagando. Ma che stai indagando su che? Ma lei ha vomitato dopo l'infezione? Sì, ho vomitato e ho passato una notte terribile. Comunque. Ma scusa, no, aspetta, però non lo so meglio. Sta indagando perché lei mi scusi, voglio sapere che cosa mi è accaduto. Capire, sono molto attenta. Voglio sapere che cosa mi è accaduto, dottoressa. L'hanno drogato, le hanno messo non lo so, in un bicchiere. Non posso assolutamente. Dico solo che non sono stato bene. Non sono stato bene e non ero lucido. Cioè, questo qua gli chiedono: è stato drogato e questo lascia la cosa così. Ma quale sì drogato? Ma sei semplicemente un incapace che non ha fatto un cazzo. Ma porca puttana, guarda. Poi a un certo punto lo sostituiscono con uno che a marzo mandava in onda un video del genere. Cioè, Speranza è un uomo di Speranza, questo qua, uno di Leu, di quel partito inesistente certo, di Speranza. Fessato da Leu. Questo, ma che era vuol dire? Candidato, ma era dai candidato con Liberi questo Uguali, Zuccatelli, senti, ma è stato senti, sconfessato senti da Leu. Ma chi se ne frega intanto che è stato sconfessato? Intanto è là, mica l'hanno rimosso, dai. Speriamo che faccia bene almeno. Le mascherine non servono a un cazzo, ve lo dico in inglese. Le mascherine non servono a un cazzo. Sapete a cosa serve? No, adesso te lo dico io. Sai cos'è che serve? La distanza. La distanza. La distanza! La distanza. Mi devi baciare in bocca per prenderti il virus e mi devi baciare in bocca per 15 capito minuti. Limonare per 15 minuti, incredibile. Quindi i vecchi che muoiono hanno limonato tra di loro. Senti, senti. Perché prende cazzo il virus? Cosa devi fare? Devi stare con me e baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca. Hai capito? Cioè, questo qua è il nuovo commissario all'emergenza benissimo Covid in Calabria. Avrà questo dei titoli, però. Questo avrà detto delle cazzate come tutti. Si è pentito. Si è pentito. Sì, ma questo qua è stato nominato. Non è la Zanzara. Il è stato nominato è ed è rimasto maggio lì. Ma dove? Non di marzo. 27 ma questo qua. 27 maggio. Ma questo deve essere preso. Hanno drogato anche lui il 27 maggio. E hanno fatto ma deve essere preso a pedate nel culo lo stesso. Ma lo difendo, dico che è il video del 27 maggio. Pazzi, 27 guarda maggio. Ma Casalino ti droga in palestra per farti dire questa roba? No, Pancrazio. Ma nessun Casalino. Pancrazio, ma chi se ne frega di Pancrazio provincia ma di Messina. Ma che è Pancrazio? C'è il legionario. C'è il legionario. C'è il legionario. Pancrazio è un'arte. C'è il legionario. Fermi tutti. Il legionario. Fermo. Ah, ecco uno lucido. Dimmi, finalmente. Dimmi. Saluti al camerata Parenzo. No, sì, perché camerata? Non e credo. A Gottalardo. Sì, dimmi. Dimmi. Originale. Mi rendete conto? Che siamo sotto dittatura stalinista. Beh, adesso stalinista, sì, Stalin è morto sì da un pezzo, amico mio. Però l'ultima... Il 7 novembre, però, è l'anniversario sì della rivoluzione. Sì. L'ultima cosa che vogliono fare sì, qual è istruire i giornalisti sui termini che devono usare verso ricchioni e negri. Sì, quello l'abbiamo purtroppo. È una cosa così, su cui letterale, posso... letterale, ricchioni e negri. Ricchioni mancano e negri. Solo i campi di lavoro e i gulag, e siamo a posto. Ma tu li hai visto? Ma arriveranno anche i gulag, sì, i lager per i culi. Questo qua va in giro in bicicletta in provincia di Messina, mi dicono, questo ex legionario, tutto vestito di nero, sì, tutto pompato. Senza perché è una specie di culturista. Non credo utilizzi la mascherina, Pancrazio, giusto? Mascherino non è uso. No, usiamo perché le maschere da guerra. È un'ottima notizia. Le maschere da guerra. Posso consigliare? Ecco, no, tolga la mascherina, vada con la bicicletta sì a girare nelle zone rosse. Secondo sì me, in un paio di giorni poi ci risentiamo. Vada con comunque la bicicletta si vada può girare senza vada mascherina vada anche per le disposizioni. Sì. Ottimo. Scusa, ottimo. Non ho capito bene. Che cos'hai contro i frocide, contro gli omosessuali, contro quelli che tu chiami ricchioni? Che cos'hai contro, Pancrazio? Non beh, ho capito. A Parenzo fanno schifo quelli che fanno il piercing e pratiche simili. Mi possono beh, fare sì, schifo quelli che si inculano. Ma per esempio contro il brasiliano, che cos'hai contro il Brasile? Ogni volta mi mandi dei messaggi contro il Brasile, contro il signor Brasile, perché? Che stanno sul cazzo quelli anabolizzati. Quelli anabolizzati, vabbè. Che fanno i bulli con i ragazzini, con i bischelletti. Chiama. Chiama il Brasile, una bella sfida tra questi voglio due. Capire una cosa, scusami legionario, tu sei, hai fatto la legione straniera, dovresti essere nei confronti degli omosessuali, no, è vero, nei confronti degli omosessuali dovresti essere ben disposto, invece li tratti froci, ricchioni, ma come non ci sono ricchioni, cioè. Alla bisogna nella legione, insomma, un po' di cularella magari si faceva anche, dai, su, lo narrano tutti i libri, dai su, anche lei l'avranno deflorata per rito iniziatico nella regione, nella legione, ti possono deflorare a te, dove c'è un reparto della legione, una caserma della legione, c'è una cozzaglia di mignotte che quando la sera si va in libera uscita, abbiamo l'imbarazzo della scelta. Le mignotte, mi pare di capire Pancrazio, che tu te ne fotti del Covid, da ex legionario ne viste di tutti i colori, figuriamoci se ti fa paura il Covid. Sono stato in posti dove c'è la febbre gialla, Ebola, la febbre del l'hai presa. Porca miseria. C'era la malaria. La meningite però l'ha fatta, la meningite, secondo me. Ma che cazzo te ne frega a te del coso? Comunque, ragazzi, non capisco perché ti stanno sui coglioni gli omosessuali. Me lo spieghi? Perché è un disturbato, te lo dico io, una parola, un ricchione anche lei. Perché è un po' ricchione anche lei, lo ammetta, il cazzo piace a tutti. Non è più un tabù, lo dice anche Febal. Alla fine ti piace, secondo me. Non ti è più un tabù, dai. Ti piace il cazzo? Io sto con 5 donne, figurati. 5 donne. E muoiono tutte e 5 di fame. Signor legionario, secondo me 5 donne una per una ti mettono lì a pecora con lo straponne, boom boom boom boom boom boom boom boom, dentro. Fermi tutti. La zanzara. Vai giù, se volete parlare al telefono con la zanzara da fallotto 00240024, oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Dani, io conosco le droghe ma non le ho mai provate. Ma vai a cacare, vai, se c'è qualcuno che sembra un drogato, quello sei te. Ho 46 anni e mi drogo da una vita, e non mi drogo perché ho problemi, mi drogo perché mi piace. Lo stipendio lo butto tutto in droga, infatti faccio una settimana da leone e 3 da coglione. Una volta ho fatto un esame per la patente, convinto che fosse come le urine, che dopo un mese va via. Ho fatto questo esame con il capello e ho fatto l'unplane. Positivo a tutto, cocaina, eroina, chetamina, benzodiazepine. Solo una cosa era negativa, i cannabinoidi. E comunque mi gioco perché mi piace, boh. Questa è. Ciao a tutti. Ho detto questo perché il caro Gottardo, che per lui siamo tutti spacciatori, quelli che tutti lo chiamano, no? Tu quando si parla di droga sei proprio ignorante, e allucinante. Non è che perché uno si droga, io sono drogato da una vita, non ho mai spacciato, le buste sono sempre aperte, mai chiuse. Se lo ritrovo, glielo faccio vedere a Cruciani, ho qualche cassetto, tutto il foglio, con l'esame del capello, tutto positivo, tranne i cannabinoidi, gli spinelli, praticamente. Tutto, cocaina, eroina, benzodiazepine, anfetamine, tutto, chetamina, tutto positivo. Non è che ne vado fiero, però ho fatto per sbaglio, non sempre per la patente che ho fatto per sbaglio. Questa è la vita del drogato. E mi drogo sempre, perché a un certo punto nella mia gioventù ho capito che la vita è noiosa. Mi annoio, se non mi drogo mi annoio. Ragazzi, poi ognuno fa il cazzo che vuole nella vita. Se questo si vuole drogarsi, drogi. L'importante è che non abbia la patente. L'importante è che non abbia la patente, che non sfasci la gente per strada. Certo, quello c'è. Tutto questo nasce dal fatto che voi avete messo al muro uno la scorsa settimana che semplicemente era un ex tossicodipendente. È vero che parlava di negri? Era uno spazzatore di droga. Era uno spazzatore di droga, non un ex tossicodipendente. Perché se tu sei tossicodipendente non finisci in galera. Lui dice di se non avere mai spacciato la droga, sì. Ma non è vero. Tutti innocenti. No, ma in carcere, la cosa più grave non è quella. Può anche aver rubato, la cosa più grave è che era un razzista. Era un razzista. No, aveva parlato espressamente di droga. Okay? Sì, ma poteva e anche quindi, aver rubato per la droga. Mi scandalizza meno a me, me ne frega niente. Era un razzista, quindi, meno. Ah, quindi peggio il razzismo del narcotraffico. Sì, certo. Ma come mai? Beh, sì, guarda, certo. Che ne uccide più la droga del razzismo. Adesso, ne uccide più la droga del lì. Razzismo. Ma quello non è un narcotrafficante. Allora, ragazzi, oggi ci sono delle polemiche per il quotidiano Libero, come al solito. Perché in prima pagina mette una foto della signora Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, appena nominata. Grande figura. Ma io poi voglio capire una cosa: ma grande figura perché? Ma che cazzo ha fatto? Ma perché grande figura? Il suo curriculum, ma perché grande figura di cosa? La sua storia. Ma per adesso non ha fatto un cazzo. Grande figura, ma cosa? Non sai un cazzo. Non sai un cazzo solamente perché è mulatta. Dici grande figura. Ma grande figura di cosa? Ma rappresenta cosa? Cosa ha fatto? Ma ognuno di noi ha una sua storia. Ma tu cosa hai fatto in 30, in 40 anni? È tu cosa hai fatto in 40 anni? Ma non è tua, la tua storia. Razzismo è una forma di razzismo la tua, Davide. Una cosa perché incredibile, tu dici guarda. Grande figura. Ha un suo curriculum, mi pare, no? Ma che tutti hanno un curriculum, anche Hitler ha un curriculum. No, non tutti. Dimmi il curriculum, non tutti, ma non lo sai. Non tutti. Non lo sai. Ma come dimmi no? Il curriculum, ma non lo sai. Ma scusami, ha fatto da vent'anni, è da vent'anni che da governo. Esattamente. Da giudice e poi da parlamentare. Ma chi se ne frega? No, so quello che ho letto come voi sui giornali. Sei come quelli che all'esame del figura, ma chi ne che ne sai? Magari una pippa. E dice esatto. Cioè, ma dai, no, aspetta. Per ora quello che risulta ha fatto. Vabbè. Ma chi mulatta? Sì, per ora, per quello favore. Che ha fatto, ha riscosso non solo il grande successo del popolo americano, ma mi sembra che rispetto ai repubblicani abbia un curriculum ma e una storia politica. Ma che cazzo ne sai? C'è gente tra repubblicani con i controcoglioni. Ma che dici? Ma scusami, il vice. Chi era il vice di. Ma non lo so, pensa là come si chiamava. Non so, perché non sai un cazzo. Perché non sai un cazzo. E quindi non lo sai. Siccome i tuoi amici di Libero. Chi era il vice di. Ah, appunto. Mulatta, bravo, la vice mulatta, il titolo contestato appunto. È la vice mulatta ha già rubato la scena a Biden. E qual è poi il problema? Non è, che è mulatta? Sì, è mulatta, sì o no? Così, sì. È mulatta, perché non sì messo o no? Negra addirittura. La vice mulatta, perché non si può dire nemmeno mulatta adesso. Non si può dire nemmeno mulatta. Non qualifica la persona, ma no, non la qualifica. È stata nominata mulatta. Per quello, è stata nominata vicepresidente per quello, perché è mulatta. Potevano scrivere quasi pazzesco. Negra. La quasi negra ha rubato la scena Biden. Ma qual è il problema? Non ho capito. E poi dice non si può dire niente. Ma certo che si può dire, ma è una stronzata. I tuoi amici di Libero hanno scritto una stronzata. E perché non si può scrivere? Perché mulatta. Voi di destra sapete solo scrivere questo. Beh, però, sapete solo fare questo. David, fare mediaticamente questo. È vero. Mediaticamente uno se la ricorda perché è mulatta. A Barack Obama tante cose le perdonavi, sì. La primavera araba, che per Trump esempio, diceva la che era nato, era non era nero. Neppure americano. Il vostro amico Trump diceva che Obama non era neppure Kenya. Nato in America. E vabbè, Kenya, e vabbè. Sì. Ma non è vero che si chiamava Dovarese. Osama, che si chiamava come no, via a censurare, ma perché non sapete niente. Anzi, Marco da Vicenza, amico Trump. Marco da Vicenza diceva che era, non era mai manco americano. Dimmi Marco dimmi. Ciao ragazzi, chiamavo proprio per il titolo di Libero, la vice mulatta. Straordinario. Qual è il problema? Quando tu pensi che Libero abbia toccato il fondo. Ma non ho capito, qual è il problema di dire mulatta? Non ho capito, non si può dire mulatta. Arrivano con le pale. Ma è una stupidaggine. Non si può dire mulatta. Una è mulatta, ma non si può dire neanche mulatta. Allora, non che cazzo bisogna dire? Bianca, negra, che bisogna dire? Ma non ha senso. Mulatto non è un termine neutro, no? Mulatto è una cosa deriva da mulo. Ma le mie figlie sono mulatte? Le mie figlie sono mulatte? Se mi dicono anche belle mulattine, che certo, io sono contento. Non è un termine neutro. Ma nulla è un termine neutro. Ma questi voi siete mai l'unico giornale che l'ha messa così? Giriamo la domanda, come mai è l'unico giornale che ha scritto la vice mulatta? Perché mettere come titolo la vice mulatta? Questa qui è stata senatrice, è stata procuratrice dello Stato. Ma chi se ne frega, quello è un titolo di un giornale libero. Ma chi ti si incula? Ma che cos'è? Ma che c'è? Di un giornale come libero. Ma io non ho capito, ma che c'è là? Il processo. Non ho capito che c'è il giudice unico dei titoli. Il processo alle intenzioni. Non è scritto la mangia banane vice del presidente, ha scritto Mulatta. Il termine è neutro, Mulatta. Non ho capito quella idea, perché no, e che cos'è, un insulto? Non è un termine neutro. Che cos'è, un insulto? Non è un insulto, Mulatta. Non è un insulto, ma neanche un termine neutro. Ma scusami, ma il Centro America, Alessio da Varese, ragazzi, fate un po' silenzio, fate silenzio su Alessio da Varese, che è l'unico giornale che l'ha scritto. Ciao a tutti. Io volevo parlarvi della, diciamo, buffonata dei tamponi, e vi parlo per esperienza personale. Enorme buffonata. Perché io ho avuto i sintomi l'8 ottobre, oggi è il 9 novembre, e sono da 32 giorni bloccato. Il 17 perché ho fatto il tampone, il 17 ho fatto il tampone e è risultato positivo. Poi nessuno mi chiamava più, sono rimasto bloccato a casa, ero come un gottardo senza spa, e vi assicuro che non è una bella cosa. Poi senza servizio in camera. Senza neanche quello, ero da solo abbandonato. Ho fatto un tampone in incognito in Svizzera pagando e sono risultato negativo. Per l'Italia non va bene. Il giorno dopo ho fatto il tampone in Italia e sono ancora positivo. Ragazzi, ma è questa la follia dei tamponi, è così, cioè la follia quanti giri di macchina gli danno. Purtroppo in Italia noi siamo molto ligi, o per fortuna chi lo sa, paradossalmente l'ATS della Lombardia. Con questo cosa vuoi dire, Alessio? Non ho capito. Io voglio fare una domanda forse a Parenzo, che è quello più lucido. È possibile che in sette mesi nel 2020 c'è ancora solo un metodo per capire di questo virus? È tra l'altro molto contestato, solo un cotton fioc, ciao, un cotton fioc, ti puoi rinchiudere a casa. Ciao Alessio, ciao. Lo so. Intanto lo stesso Libero ci informa che è un momento magico per le prostitute al lavoro, 90.000, ma mi ha detto prima Efe Ball, il turco, vediamo se sta lavorando il turco, di quello sta facendo un caso. No, che ci sono al lavoro 90.000 prostitute. Al lavoro ci sono 90.000 prostitute. Mi sembrano leggende. Ragazzi, ho fatto una videochiamata con uno che ha il Covid. Sono fiera di avere fatto venire uno con il Covid. Così mi ha detto. Chiamiamo il turco. Vediamo se la teoria di Parenzo ritorna in auge, Ma sicuro. Uno. Fonzi da Brescia intanto, dai, Fonzi da Brescia. Sì, volevo spiegare una cosa a Parenzo, che l'altro giorno era tutto meravigliato. Dimmi. Quando avete sentito la grande Alessia Nobile, che Dio la benedica, e spiegava che appena prima del lockdown i pugliesi stavano correndo a farsi inculare dai trans e lui era tutto allibito, la verità invece è proprio quella: ai pugliesi piace un sacco andare a travestiti. Io ho lavorato parecchio con i pugliesi a non credo sia una caratteristica pugliese quella di andare a trans. Invece è proprio così, è proprio una caratteristica pugliese, c'è un fattore culturale. Io sostengo, cioè, i pugliesi vanno a trans. Aspetta un attimo, fermo. Uno. Eccoci. Lo vedi, Marco, lo vedi. È lei, due, il turco, Marco risponde se... Scusa, hai fatto, scusami turco, hai fatto venire uno, cosa è successo? Sì, mi ha chiamato uno che tra l'altro ci conosciamo, lui vive vicino a Rimini, mentre si stava masturbando, una videochiamata, e mentre si stava masturbando mi ha confessato di avere il coronavirus, e che ho fatto sborrare uno con coronavirus, che ma non si era, cazzo! Bene, quindi avanti tutta, applauso! Anche quelli che applauso. Quello però, scusami, cara Efe, non era in discussione. Però tu sei orgogliosa di avere fatto eiaculare, venire uno malato di coronavirus. Sborrare. fare uno. Sì, va bene, d'accordo, quello si può dire, quello puoi dire tranquillamente. Stasera dormirò più tranquillamente, più felicemente. Scusa, potresti, lo sai che potresti fare una grande iniziativa, però una grande iniziativa a distanza, potresti prendere spunto da questa cosa per... Ogni giorno ne faccio 7, 8, 10 videochiamate io. Sì, ma dovresti fare il coronavirus, mi è già capitato, però però dovresti fare gratis, dovresti fare gratis per i positivi. Se fosse così sarebbe sempre occupato. Lì mi dovrebbero assumere dell'ospedale, mi dovrebbero dire: ecco, se abbiamo 2-3 cure per quelle che c'erano il coronavirus, possiamo mettere l'ospedale degli orrori, però. No, ma che orrori, sì, magari possiamo ricoverare in ospedale, o altrimenti quelli che stanno bene, stanno parlando in aree, possono chiamare EFE per masturbarsi in diretta. Ma cosa ha fatto EFE in videochiamata? In videochiamata cosa fa EFE Ball? Nel culo. Non ho capito. Un vibratore di 23 centimetri nel mio culo, l'ho fatto per 15, sì, e c'è stato un feeling eccezionale. Dopodiché lui ha sborrato, è andato in bagno. No, non ho capito. Dunque, questa è stata la cosa. Questa è stata la telefonata, è stata così. Va bene, grande. Io, secondo me, dovresti farlo per i malati di COVID. Dovresti far sapere, grandi immunologi come dottor Galli, che ci sono delle prostitute che fanno sborare loro, amici, quelli che fanno le videochiamate. Con le videochiamate, nonostante che hanno il coronavirus, quindi questa è la speranza, capisci? Anche quelle che hanno il coronavirus, sperando il cazzo duro, possono. Questo signore possono anche sborrare. Ciao Efe, grazie. Ciao. La Zanzara. Puoi ammirare Mussolini perché è un testa di cazzo. Ci ha detto bene Parenza, è un testa. Che cazzo gli ha detto a lui che tutti gli autisti è per il Duce? Gli ci faccio una cagata sopra la fotografia di sto stronzo. Luciane, inchia la Saolino 50.000 euro per una notte e ci deve pure pensare. Ma Lucia, ma chi ce l'ha per ruolo con 50.000 euro? Lucia, con 1.000 euro te ne porto io di fighe. Compa, c'è 50.000 euro a Saolino. Mamma mia. Ciao Lucia. Comunque oggi, ragazzi, è la giornata del vaccino. Hanno promesso ormai mari e monti, arriveranno milioni e milioni di dosi. E come mai è uscita fuori questa notizia proprio dopo, Parenzo, l'elezione ufficiale del signor Biden? E come mai, secondo te, come mai? C'è una casualità oppure no? Intanto volevo leggerti una cosa che ha scritto un europarlamentare della Lega Nord, si chiama Francesca Donato. La conosce la signora Donato? La conosce o no la signora Donato? La signora Francesca Donato. David, mi senti? Tu la conosci, Gottardo? Ma mi sembra di averla già sentita da noi una volta, la Francesca Donato, l'europarlamentare. Allora, della ha scritto, Lega. Riepilogando, abbiamo un nuovo presidente americano eletto grazie a brogli postali. In Italia una dittatura soft. In Italia una dittatura soft che però, ci massacra soft economicamente. L'Unione Europea è in stallo e in deflazione. L'Africa che emigra in Europa e la Cina che si compra tutti. Bene, ma ciò ottimo. Che ci angoscia è il COVID. Sì. E nonostante questo, Donato, e nonostante tutto questo disastro, costei continuerà a prendere tra i 12 e i 15 mila euro netti al mese per fare questi tweet qua. Benissimo. Bruno da Cagliari, vai Bruno. Ciao a tutti, dimmi. Allora, aio. Guarda, io sono incazzato nero con queste merde di statali che hanno trovato nel COVID un'altra scusa per non fare un cazzo. No, perché... scusi amico da Cagliari, però guardi che anche i medici, gli infermieri, i pneumologi sono degli statali. No, gli statali che lavorano per, medici naturalmente. Quelli che lavorano medici, per la pubblica amministrazione in generale. Uh-huh. Quindi la polizia allora, invece i vigili del fuoco come li classifichiamo? No, lavoroni oppure quelli, no? Scusi, poliziotti. Ah, scusa, quelli, ok, perfetto, benissimo. Certo, no, quelli. Vabbè, no. Bruno, non ho capito, cosa vuoi dire? Spiegami. Allora, questi coglioni, allora, io ho una pratica, e questo è in smart working, No, sono in smart working, non posso prendermi la responsabilità. Vabbè, ma non so ma di cosa si tratta. Non so di cosa si tratta. La burocrazia aumentata, eccetera. Ma che cazzo? Cioè, se tu sei in smart working non ti prendi la responsabilità e quindi rimandi ancora. Ma hanno trovato un'altra scusa per non fare una Ma lei vuole dei soldi dallo Stato, dall'Europa, per caso? Che sì, è un progetto che si fa con l'Europa e quindi E quanti soldi le darebbero? E quanti soldi le darebbero? No, su 100.000, eccetera. 100.000 euro? Ma per fare cosa, scusi? Vabbè, ma che cazzo vuol dire? Questo è un altro discorso. No, per sapere. Ma chi se ne frega di quello che vuole fare? Lui sta dicendo, non gli portano avanti il progetto. È uno Stato. È uno Stato che fa tanto schifo perché non mi dai 100.000 euro. No, il progetto, ma lei non può tirarli fuori. Ma li tiri fuori lei i soldi? Perché li vuole dello Stato? Perché li vuole dello Stato? Cosa vuol dire? C'è un progetto, lo Stato lo può finanziare, punto e basta. Che noi, che poi l'Italia dà soldi all'Europa e poi tornano indietro. Vabbè, ciao Bruno, Michele, provincia di Caserta. Buonasera a tutti. Dimmi. Allora, volevo dire due cose, Crociani, se è possibile. Sì. Allora, ieri ho visto praticamente... Aspetta un attimo, Davide, ti volevo avvertire che questo signore, ci sei? Che questo signore, sì, che si chiama Zuccatelli, che è quello che è subentrato all'altro fenomeno, l'ex generale dei Carabinieri, quelle cose là, le ha dette il 27 maggio. Per beccarti il virus, se io fossi positivo, tu devi stare con me e baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca, altrimenti niente. Non le ha dette all'inizio della pandemia, le ha dette alla fine di maggio. Le mascherine non servono a un cazzo, l'unica cosa utile è la distanza. Questo ha detto questo signore. Ora, un signore che ha detto queste cose qua alla fine nominato di maggio, da Speranza, alla fine, nominato da Speranza, perché ancora rimane lì? Partito, perché ancora rimane lì? Ma guarda che lo perché rimane? Ma non me ne frega un cazzo a me del partito di queste puttanate! Non me ne frega niente, perché rimane lì? Non me ne frega niente del partito! Ma chi è Fratoianni? Ma chi cazzo è? Il leader del partito. Ma vaffanculo, Michele, provincia di Caserta. Il leader del partito che l'ha nominato. Ma anche secondo me non dovrebbe stare lì. Volevo dirti una cosa. Dimmi. Allora, praticamente ieri era un giornale regionale, tipo DGR Campania, comunque praticamente mostrava tutto via Caracciolo, che sarebbe il lungomare di Napoli, con persone tranquillamente con la mascherina abbassata. Facevano pure gli spavaldi, no, noi siamo all'aria aperta di qua, di là. Era un servizio bellissimo fatto da un bravissimo giornalista. Sì, ma non ho capito qual è il problema, la gente stava sul lungomare autorizzata e poteva, non so, magari non autorizzata era... Autorizzata senza mascherina. Ma quello è un altro discorso, se stavano fuori senza mascherina non so come siano le regole in Campania. Non so perché non se non hanno messo la mascherina, se si sono assembrati, se erano troppo insieme, dove intervenire la forza pubblica? Punto. Infatti, secondo me l'unica cosa che poi dovrebbero fare, dovrebbero avere il coraggio, come hanno il coraggio di non mettersi la mascherina, poi le bombe carta se le devono mettere nel culo. Ma che c'entrano le bombe carta? Ma non mica sono gli stessi, le bombe carta sono cose di delinquenti, cosa c'entra? Posso dire la seconda cosa. Qua si sta parlando di Covid, che dicono che la campagna funziona male, che si muore solo di Covid. Allora, io ho mio padre con un tumore ai polmoni e ti posso assicurare che il Pascale di Napoli, che è un ospedale oncologico, sta funzionando benissimo e fortunatamente mio padre sta ricevendo le cure che deve. Meno male. Con fortunatamente ottimi risultati. Quindi io volevo ringraziare i medici e volevo dire a sti coglioni almeno di alzarsi la mascherina invece di fare gli eroi. Ciao Michele, ciao. Ciao, buonasera. Voglio sapere Parenzo cosa dirà quando verranno fuori le cose delle posizioni molto molto filo palestinesi di quella signora mulatta di cui parlavamo prima. Voglio vedere che cosa dirà dopo. Voglio sapere che cosa dirà dopo. Non mi risulta. Ma io vorrei parlare, non ti risulta? Vediamo. Intanto vorrei parlare di un medico di base, un tale che si chiama Amici, il quale sostiene che la vaccinazione anti-influenzale è inutile. Medico di base questo qua, audio, Amici. Non serve il cattedratico per spiegarlo, uno studente al secondo anno preparato che studia sa spiegare che la vaccinazione anti-influenzale è perfettamente inutile a carattere maiuscolo. Gli interessi delle case farmaceutiche. Comincio a pensare che al di là degli interessi personali, perché abbiamo tra ricercatori, cattedratici, case farmaceutiche, una marea di conflitti di interessi, per cui io ritengo che il ricercatore oggi come oggi, non essendo più la sana ricerca finanziata dallo Stato, ma viene finanziata dalle case farmaceutiche, comincia a pensare che i ricercatori non sono liberi di dire la verità. Non si muore, io ci ho avuto nell'ambito del mio gruppo di medici, che abbiamo 6.000 pazienti, anche noi abbiamo avuto delle false diagnosi di Covid. Perché dico false? Dico false perché se la diagnosi di Covid è basata, come è basata, sul tampone, è una falsa diagnosi, perché il tampone è assolutamente inattendibile. Se non è stato isolato, come fanno a fare un'interfaccia, cioè il tampone, che dei reagenti che interagiscono con quel virus, se il virus non l'hanno trovato? Come potete trovare col prelievo serologico degli anticorpi contro cosa? Per fare cosa poi? Per diffondere il panico nella popolazione. Abbiamo migliaia di positivi, si stanno riaccendendo i focolai. Tutto questo fa parte di una strategia internazionale, perché questa è una guerra mondiale, mettetelo bene in testa. Qui c'è una strategia internazionale. Allora ragazzi, questo è un medico di base, si chiama Mariano Amici, medico di base, è uno di quelli che dovrebbe consigliare, diciamo, i pazienti su cosa fare, cosa non fare. Io lo chiamerei, dice di non farsi il vaccino, magari dice anche di non mettersi la mascherina, dice che i tamponi sono completamente inutili, dice che ci stanno pigliando per il culo, che c'è un complotto internazionale, anzi che c'è una strategia internazionale. Parenzo, tu cosa faresti? Lo cacceresti dal ruolo di medico se fossi il capo dei medici? Direi, che oggi dice... Lo sospenderei dell'ordine dei medici, sicuramente. Cioè, no. Un medico, tu no, tu ti faresti curare da uno così? Io preferirei Galli. Medico non può dire quello che pensa. Adesso un medico non può dire quello che pensa. C'è il pensiero unico sul virus, sulla mascherina, tutto. No, rispondi a me invece, fai lo spiritoso. Ma che è spiritoso? Volete il pensiero unico? Non fare i giochetti. Che tu, quando hai bisogno, chiami i migliori medici perché li conosci come me. Altro che questi qui. Ma che ne sai? Io ti chiedo un'altra cosa. Siccome tu sei potente. No, ma non sono potente manco per il cazzo, ma che dici? Non sei neanche come tu, quando ti senti male, ma che cazzo dici? Sono benissimo perché come puoi si farlo. Come i migliori ma medici che chiami, perché lo puoi ma fare come Briatore e tanti c'entra? Altri. Tu ti faresti curare da quello lì? Rispondi a ma me. Ma non lo so, rispondi non lo conosco, no, non lo no, conosco. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, della libertà. Andresti a piagnucolare da Galli. Ma non vado a piagnucolare da nessuno, non ti preoccupare. A piagnucolare da Galli e Crisanti appena ti senti male, perché lo fai? Ma figuriamoci, non l'ho mai fatto. Siccome lo fai già, lo ma fai, vai a piagnucolare dai grandi primari. Vai a piagnucolare dai grandi primari. Ma quando mai? Non sono mai piagnucolato da nessuno. Ma poi che c'entra appena con quello che dice Amici? Piagnucoli e chiami grandi. Ma piagnucoli un pezzo di cazzo. E lo puoi fare. La povera gente non lo fa. E tu li mandi nelle braccia di questi dementi. Questo fai. Perché esalti questi personaggi. Ma quando piagnucolava? Mai, in nessun caso, guarda, sicuramente piagnucolo mai. Chi può chiama ma i cosa c'entra questo col tema che affronta questo qua? Cosa c'entra? Perché siccome tu esalti la libertà di questi, ma se hai bisogno certo, non chiami questo, chiami il primario. Ma tu. Perché non lo conosco? Ma se lo conoscessi mi fidassi, chiamerei pure questo. No, tu ma che cazzo ne sai? Io ho chiamato 1000 persone, anche primari e non primari, non dire puttanate. Ma che ne sai tu chi chiamo io? Però fai chiamare la povera esalti. Ma che faccio chiamare di che? Ma che cazzo di esalti questi, chiama questa amici, però siccome va, tu prima puoi fare chiami culo, chiunque va. Ma vai capito? A cagare questo vai. Sei tu questo sei l'ipocrita, questo come se non avessi a chiamare come se lui chiamasse gli scalzacani che... ma va a culo. Io certo che chiamo i numeri uno, ovvio, come te vai, però vai. Certo, ma almeno lo ammetto. Ma io non so, mica magari questo è il numero uno, magari questo è il numero mica uno, sono un ipocrita, questo è il numero mica sono un ipocrita. Ma io non sono ipocrita, io non esalto questa gente, però solo quelli di cui mi fido. Può essere questo, può essere un altro, può essere questo o un altro. Chiami solo i numeri uno. Ma che cazzo ne sai te? Ma che ne sai te? So, ma perché non lo sai so, un mentre cazzo la povera gente, ma non sai esatto un cazzo questi idioti, ma esatti questi, chiamiamo amici, questo ma fai approfondiamo tu. Questa è la differenza, ma che approfondiamo, ma vaffanculo, certo, questo è il tema, ma che devi approfondire un pezzo di cazzo, purtroppo devi chiama questa amici. È la questione, purtroppo esatta questi ma non li chiama oh. Pronto? Sì. Parlo con il dottor Amici? Sì. Come stai innanzitutto? Abbastanza bene. Ho sentito un suo intervento molto forte. Lei è un medico di base, no? Sì, io sono... Vengo dall'università, poi ho fatto tanti anni di ospedale e poi adesso faccio il medico di base. Cioè, lei ha parlato di una vaccinazione antinfluenzale inutile, questo mi sembra di averlo sentito. Cioè, la vaccinazione... Vabbè, questo l'ho detto in tutte le salse, e ho spiegato bene però i motivi e ho parlato anche a fonte di documentazione scientifica che documenta l'inutilità e anche i possibili rischi della vaccinazione antinfluenzale. Cioè, secondo lei può addirittura favorire il Covid? Ci sono degli studi scientifici che sostengono chiaramente che la possibilità di contrarre il Covid con la vaccinazione antinfluenzale aumenta del 36%. Questo addirittura. Gli studi scientifici, non lo dico io. Dunque lei non la farebbe adesso, cioè la vaccinazione antinfluenzale, la sconsiglia? Io non consiglio e non sconsiglio. Io quando viene il paziente gli spiego come fanno le stesse case farmaceutiche che scrivono nel bugiardino i rischi della vaccinazione e io prima di vaccinare spiego al paziente i rischi della vaccinazione. Agli anziani va fatto però, agli anziani sì va fatto il vaccino antinfluenzale, almeno agli anziani. Agli anziani, a maggior ragione, bisogna spiegargli i rischi della vaccinazione. Bisognerebbe tutti i medici spiegassero, anzi il governo dovrebbe disporre come Ma lei ha detto che è inutile però, eh? Quella cosa là che ho sentito io, ha detto che è inutile. Sì, perché è inutile, perché è fatta con ceppi di virus degli anni precedenti, quindi non può nulla contro il virus dell'influenza che verrà. Però scusi, io... Se non ho capito male, lei quando parla di strategia internazionale, parla chiaramente di una strategia internazionale per diffondere il panico, di questo parla? Certamente le multinazionali del farmaco credo che insomma in qualche misura ci possano essere dietro, no? Perché altrimenti perché spingere oltre i limiti consentiti dalla tutela della salute su una questione che... Al massimo si può lasciare come facoltativa. Chi c'è dietro questo? Ma il problema qual è? Nel momento in cui il tampone è inattendibile, non validato, non diagnostico, tutto quello che ne scende a valle è tutto falso. E allora se è tutto falso e lo sanno bene, lo sappiamo bene che è tutto falso, tutto inattendibile, perché insistere con i tamponi per trovare sempre focolai di nuovi casi di Covid, oppure gli ospedali sono intasati di Covid, eccetera, eccetera. Beh, perché non è vero? Quando la verità è che chi è positivo al tampone non è detto che sia malato di Covid, come chi è negativo al tampone non è detto che non sia malato di Covid. E gli ospedali gli ospedali sono pieni, ma il problema è che sono pieni di cosa nel momento in cui la diagnosi di Covid non si può fare, glielo dico a chiare note, perché non è il tampone che ci può fare la diagnosi. E dunque sono pieni di malati. Cioè sono pieni e di malati. I malati vanno curati per le patologie che presentano. No, ma lei dico le terapie, quando si dice le terapie intensive si stanno riempendo di persone malate di Covid. Lo dicono perché col tampone positivo, chiaramente loro danno per Covid un malato grave, magari di insufficienza cardiocircolatoria eccetera, o altre problematiche, ma che è positivo al tampone. Cioè, no? Lei sta dicendo che c'è una grande truffa, c'è un grande imbroglio. No, io nel momento in cui vedo queste cose, che si fa forzatamente la diagnosi di Covid, io mi domando perché se rispondetemelo voi. Ma tutto il mondo si sta basando sui tamponi, dice lei. Certo, tutto il mondo, ecco perché dico che la guerra parte da lontano, perché è tutto il mondo che diffonde queste notizie che sono false. Provoca i morti che dicono, oppure c'è un'esagerazione? No, il Covid è inquadrabile nell'ambito delle sindrome influenzali. Poi chiaramente la stessa sindrome influenzale, se viene ad un paziente con altre patologie, quella sindrome influenzale lo può portare alla morte. C'è un disegno autoritario, lei dice ci dobbiamo ribellare, lo dice lei, ma ci dobbiamo ribellare. In cui le autorità insistono, io non dico dobbiamo ribellarci con i carri armati o con le mitragliatrici, io dico dobbiamo ribellarci con l'unica arma che speriamo ci rimane, cioè quella della magistratura. Addirittura. Tant'è vero che io ho fatto, perché io ho fatto prima il ricorso al TAR contro l'ordinanza sulla vaccinazione obbligatoria Giorgetti e l'ho vinta. Ma pensa te. Adesso ma ho fatto la denuncia sui tamponi per sulla inattendibilità dei tamponi. Ma come si fa a stabilire? Come si fa a stabilire se uno è malato di Covid se non può fare né i tamponi e nulla? Come si fa? Non ha capito. Sì, ma non, infatti non si può fare perché il tampone non è. Non si può fare. Ma scusi, lei la lascerebbe la gente in casa o no? Il lockdown è utile o non è utile questo lockdown? Il lockdown non è assolutamente utile, la mascherina non è assolutamente utile. No, la mascherina, vi faccia capire, scusi, perché mi stanno girando i coglioni, scusi, eh. Cioè, come, scusi, come bisognerebbe capire, fare? Qua, diffondere il virus? No mascherina, no tamponi, no lockdown. No lockdown? Ma che cazzo bisogna fare allora, caro dottore? Bisogna curare la gente per quello che ha. Ho capito, il distanza... E non bisogna intasare i pronti soccorsi, non bisogna diffondere il panico. Il medico di famiglia, certi pazienti, come ho fatto io, che sto facendo io, me li curo a casa. Dunque bisogna sostanzialmente fare, continuare a vivere normalmente come abbiamo sempre fatto per adesso. Continuare a vivere... Certo, e poi i medici a potenziarli perché si devono curare i malati a casa. Uno che parla... E quindi... Io non mi metto la mascherina, né la faccio mettere a loro, ma però no. Ho avuto casi con tampone positivo e me li sono curati a casa, li ho guariti. Ma come fa? Lei dice della mascherina di non mettere ai suoi pazienti, lei è un medico di non base. Non serve a nulla la mascherina, ma non come serve si permette? A nulla. Ma cosa dice? Non mi permetto, ma cosa dice? Non ma come io, si permette? No. Ma quale scienza? Ma la scienza di ma Topolino? Che, la scienza di Topolino? Dicendo, lo dico a gran voce, lo dico a gran voce. No, ma mi dica dove esercita, perché prendo la residenza in Svizzera io. Mi dica dove esercita, sì, perché Svizzera, mi allontano. Vado in Svizzera, ma non mi chiami più, perché non c'è peggior sordo di colui che non ma certo che non la chiamo, ma si figuri se la chiamo io, ma siamo al delirio, siamo. Bene, ma ti ba- no, ma che siamo matti, siamo. Che io invece sono dalla sua parte, amici. Io sono dalla sua... La Zanzara. Ma tu scegli di prenderlo in culo del transessuale perché alla fine sei un ricchione, dai. Ma fallo sto coming out, sei un ricchione, smettila, Crucio, dai, ti piace il cazzo, l'abbiamo capito. Senti Crucià, tra fa la vita che fa Ruggero e fa la fine di quelli che stanno tra le mani del transessuale de Bari, sì. Secondo me non c'era proprio dubbio che avessi scelto la seconda. Ma non c'è dubbio. Brutto ricchione. Allora ragazzi, ho ricevuto diversi messaggi su questo argomento, la scelta era abbastanza secca. Il la gioco scelta... della torre, chi sì. Butteresti giù dalla torre? Sì, invece più... qui era, lo prenderesti in culo o lo smetteresti di farti qualsiasi attività, compreso l'autoerotismo? Esatto, cioè, ragazzi. Non lo so, io scelgo la ghigliottina tra le due. Sì, scelte, ma, non de... terza, ma non c'è una terza via, ma non c'è una terza via. Dovevi scegliere tra quello o passare, diciamo, alcuni giorni, sì. Una parte della tua vita in mano alla signora... quella Alessia Nobile, transessuale, cioè prenderlo anche in culo, oppure astenerti dal sesso fino al matrimonio, cioè scegliere la vita, la vita di Ruggero. Parenzo ha scelto Ruggero. Anche in culo con la mazza, tra le altre cose, lunga un metro, con alla fine un fallo, mi sembrava di ricordare. Ragazzi, di allora, Nobile. Moltissime persone hanno scelto l'opzione Alessia Nobile, perché l'opzione Ruggero è francamente imbarazzante. L'opzione è insostenibile, Ruggero, cioè, è ragazzi, insostenibile, cioè, effettivamente. Meglio prenderlo in culo da Alessia Nobile piuttosto che sono non farsi mai una sega. Dai, sono su. D'accordo persino io. Sono d'accordo ma persino sì, io. Alla fine è così. E ricordo, voglio ricordare ancora una volta il numero di Ruggero. Il numero di Ruggero che è 347, sentite bene, 347 360 3084, mi ha autorizzato perché, lui. Perché? 347 360 3084. Ma lo fa sempre, lo dà sempre. Se numero. Voi volete anche a lui spiegare i motivi della vostra scelta, sto con Ruggero oppure sto con la transessuale di Bari, potete chiamarlo tranquillamente. Uno di questi giorni organizziamo una grande gang qui con Ruggero al centro. Ma potremmo aprire il quesito nella piattaforma Rousseau, tanto ormai la piattaforma Rousseau non la usano più. Non serve, e poi non serve un questo. Cazzo, tra l'altro. Allora, qualcuno si è scandalizzato perché la famosa Angela, quella di Non c'è Covid, ha realizzato un video, una specie di balletto, una canzone orribile, orrendo, cercando di sfruttare ormai fino in fondo questa cosa. Cioè, ed erano senza mascherine. Persino Martani canta meglio di quella. Guarda, allora, abbiamo il video. Beh, sicuramente abbiamo il video. Erano tutti quanti a Mondello di mattina presto a Palermo, senza mascherina, senza distanziamento. Criminale. È arrivato quello. Criminale. Dai. Ma scusa, balli senza mascherina. Ma ho lì capito in, ma criminale. Vengano sanzionati. Criminale. Ma poi scusami, Davide, poi, tu puoi correre, puoi andare in bicicletta senza mascherina, ballare invece no. Vabbè, sono da solo, ma sono da solo, però la differenza fondamentale. Vabbè. Sentiamo sto balletto, c'è sto balletto. Vogliamo un'Italia libera! Vogliamo! Inizia così. No, era la reunion finale questa. C'era gente che sventolava il tricolore, c'era uno con le mesh tricolori in testa e gridavano libertà, libertà dopo il video. Una roba agghiacciante, ragazzi, andatevela a vedere, è agghiacciante. Però non può chiamarla questa qua? Parenzo, incazzati però. Sanzionata, incazzati. Sì, è stata convocata in procura, no, in procura, al commissariato e forse postura, denunciata, sì, ragazzi, però. Bene, bene, meno male. Pronto? Angela? Chi sei? Parenzo, Radio 24, ho visto il tuo balletto lì su Instagram. Dimmi. Ma ti sembra il modo? A ballare senza mascherina? Ma che cazzo? Io adesso non mi voglio arrabbiare, veramente, perché l'ho fatto tante volte. Sai, con queste persone c'è una sola regola per farle parlare: cacciare i soldi. Te lo dico io, cacciare i soldi. Sì, però sì. Fermi tutti, Donato da Varese torna tra di noi. Non so cosa vuole. Donato, dimmi. Dimmi, non so cosa voglio, È avvelenato, dimmi che c'è. Io ho subito, adesso è inutile che ci vogliamo arrampicare sugli specchi. Io ho subito un agguato, no? Uno da quell'ammasso molle schifoso che si butta sul letto come una bagascia padovana. Gottardo, dice. Gottardo. Davano, sì. Un altro da un lurido schifoso illuminato da una sorte di fortuna che non si sapeva dove proviene, che c'è ogni giorno deve sempre parlare. Meglio che facesse scoppiettare il culo farebbe meglio. Ha fatto il tifo per Biden e non si può dire mulatta la signora, non si può dire mulatta alla signora Kamala Harris. Si chiama Kamala Harris, non mulatta. Tu facevi il tifo per Trump, Donato? Facevi il tifo per Trump, immagino. Certo che facevo il tifo per Trump. A meno Trump. Bene. questo qui adesso istituirà il secondo reggimento dell'ISIS. Prima il guerrafondaio Obama con quel premio Nobel regalato, io non so per qua, da quali altri criminali. Obama che ha distrutto la terra. Obama, il peggior criminale della terra. Non sapevo questo, non me ne ero accorto. Quello che fece la guerra Gheddafi, perché adesso abbiamo noi, purtroppo, quella brava persona di Gheddafi. Quella brava persona di Gheddafi era un benefattore, Gheddafi, no? Faceva del bene, Gheddafi, in Libia. Gheddafi era certamente Gheddafi era meglio di Obama. Obama è stato un assassino, è stato un guerrafondaio, ha destabilizzato perché hai richiamato? Spiegami. Ho richiamato perché c'è stato uno zimbello che è entrato una sorta di agguato. Sì. È entrato questo zimbello. Chi è? Un certo Francesco. Francesco da Firenze, sì, Francesco da Firenze. Ho sentito questi due coglioni. Ho sentito un tuo intervento di questo Francesco. È già, secondo me, è già un disonore chiamarlo per nome. Addirittura offendeva Sgarbi, offendeva, sì, tra, no, appunto, sì. Lui è risultato, sgarba sempre risultato di essere un gigante, questo verme. questo saprofita. E poi inoltre, poi tu Cruciana, hai chiesto a lui: ma che lavoro fai nella vita? E lui ha detto: ma che cazzo c'entra mo, perché cazzo c'entra quel fatto, io che lavoro faccio? E che cazzo c'entrava mio fratello morto con dolori lancinanti 2 anni ma fa? Non ti ha mica attaccato per tuo fratello, no. Ti ha attaccato per la tua musica di merda. Adesso questo lurdo che ha parlato nel privato ha detto che io sono una persona molto brava. Perché sono un bravissimo Quando si butta sul letto come una puttana, non avendo nessuna arte e parte. Io mi vergognerei. Io voglio stare anch'io sul letto una bella serata. Poi ti faccio vedere l'audience come sia. Tu sei un ammazzo di sugna. Sei un ammazzo di sugna. Io però ti colpisco nella tua pseudo professione. Ma colpisci dove cazzo vuoi, non me ne frega niente. Sei un cantante fallito. In privato, prima sta merda viene a dirmi che io sono un bravissimo cantante. Non l'ho mai detto. Sei bravissimo cantante quando non canti. Canti peggio della Martani. Per far capire che la gente esiste, ti metti a dire delle cose il contrario di quello che mi hai detto in privato. Tu non sai cosa faresti. Il dittatore Donato. Questi due bidoni di percolato, ma tu ti rendi conto? Questi due bidoni di percolato che non danno nessun supporto alla tragedia che abbiamo in Italia. Che tragedia abbiamo? Guadagnano pure soldi. Ma che tragedia abbiamo? L'Islam, ma che tragedia abbiamo? L'Islam, dici? L'Islam, noi siamo fottuti con l'Islam, basta, è finita, noi siamo già islamizzati, se noi la vogliamo raccontare, perché quel porco di Parenzo, se adesso offendessi Cristo, Parenzo sa cosa dice? Ma non si dicono queste cose. Certo, offendo Maometto, io me ne vado, non si può fare, non si offende Maometto come non si offende Gesù Cristo. Sei un verme, dica se sei un maomettano, gli pisceresti in faccia come ogni giorno pisciano in faccia. Come ti permette? Allora, fermi tutti. Francesco da Firenze, però aspetta un attimo. Francesco, dimmi Francesco. Donato, volevo chiederti, a me dispiace tuo fratello sia morto tra dolori lancinanti, però potevi anche decidere di non suonare sul suo letto di morte e gli avresti risparmiato parecchio dolore a tuo fratello. Quindi è stata una tua scelta quella di salutarlo con un'ultima canzone e hai portato tuo fratello a morire tra dolori lancinanti. Quindi non te la puoi prendere con noi, Donato. È uscito dalla cagata di un cagnoliera. Donato, sfogati, tira fuori questa rabbia che c'hai dentro. Dimmi, Donato. Una peculiarità che io possa pensare. Peculiarità con la L, non con la N, Donato. Peculiarità con la L, non con la N. Mostra i tuoi attacchi, mostrali con quale sfogati. Dai, devi tirare fuori questa rabbia che c'hai dentro. A parlare la merda quale sei, e Cruciale, purtroppo. Spingi un po' di ma Cruciani è una povera vittima, perché io sono d'accordo con i ragazzi della redazione. Quindi Cruciani è una povera grande vittima. Grande sto Francesco, ma darà su Francesco davanti a me 15 minuti. Ti faccio cagare il sangue dagli occhi. Come 15 minuti? A questo 15 minuti. Bello Nuri, che se permetti di offendere minuti? Sgarbi, un maleducato, uno screanciato, un grandissimo figlio di mignoso. Ma i figli di mignoso, quello non c'hanno un cazzo da fare. Dimmi dove abiti e domani mi metto nel treno e ti vengo a trovare a Barete. Dimmi dove abiti. A Cruciani che ti ha chiamato di nascosto per farti cagare sulla mia persona. Ma Cruciani non mi chiama, sono io che chiamo rincoglionito. Ho sentito te e volevo portarti la mia solidarietà, perché mi rendo conto che tu non volevi fare del male a allora fermi pensavi di salutarlo. Allora ragazzi, fermi. Di che anno è Donato? vediamo quale di che anno sono sei, Donato? Fermi tutti, fermi tutti, voglio capire di una cosa. Di che anno sei, Donato? Di che anno sei nato, Donato? Non ci sono lamiti dei morti, di destra. Ma quando sei nato, Donato, che non mi ricordo. Fermi! In che anno sei nato? Fermi tutti, io voglio capire una cosa. Prima della legge sull'aborto. No, perché ti interessa. Prima della legge sull'aborto sei nato. No, per capire in che anno è nato, Donato. Allora, perché ti arrabbi? No, non c'è la R486 quando lei è nato. Non c'è. Passi sto uomo di merda che viene passato per una persona che ha ragione. No, ma non c'è bisogno di arrabbiarsi. Allora, Francesco, tu come. Questo è esattamente come i funghi avvelenati che hanno bisogno del clorofilla per vivere. Si è messo a offendere Sgarbi. Tu hai difeso Sgarbi a spada tratta. Perché non difendi me, carissimo Cruciani? Perché non difendi me da questo lurido messaggio? Ti difendi da solo, Francesco. Come lo definisci, Donato? Tu, Francesco, in conclusione, come lo definisci? Disturbato, allora, Donato è sicuramente una persona con dei disturbi della psiche gravissimi. Certo. A cui io rinnovo il mio invito. Cruciani, certo, puoi dare a Donato il mio numero personale. Donato mi chiama e parliamo, perché lui deve superare questo trauma di aver peggiorato, diciamo, la morte di suo fratello, rendendola infinitamente più dolorosa, dedicandogli un'ultima canzone. Soltanto questo, secondo me, se con Donato riusciamo a parlare veramente, Donato, di tutto che trauma, dici, Donato, dimmi. Lui può diventare una persona persino normale. Che viene a dire che la mia musica non è bella, questo gimbello. Tu, Cruciani, dovresti chiamarlo, questo gimbello, e deve dire che la mia musica dove non è bella, questo gimbello. È lui che dice cazzate e poi si nasconde dietro la merda. Dietro la merda, questo gimbello lui. Fermi tutti. Questo è il figardo. La seconda puntata finisce qui. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità? La Zanzara. No passaran, no passaran, avanti tutta, Biden avanti tutta. La Zanzara. We are liars, we are thieves, scheming dildos, dressed like cheap, dealing tragedy and false beliefs. We are liars, we are thieves, and we're the dogs. Piuttosto che vivere come Maurizio Ruggero, inculati dalla nobile tutta la vita. So put your face on your ball of flame. Ho visto la foto di Alessia Nobile su Facebook. È un mostro. No, io no, non mi faccio mica inculare dalla nobile. No, no, no, no, no, no, no, no, no, vi dico la verità, piuttosto resto casto. Io piuttosto di mangiare questa minestra, io salto la finestra. Ma tutta la vita la signora nobile, tutta la vita la signora nobile, che è quel pazzo furioso. Raga, io sceglierei la nobile pure se non ci fosse Ruggero. Cruciani, per favore, ripeti il numero di Ruggero. Voglio comunicargli che sto dalla sua parte. Io in culo non lo prendo. Bastardi! State creando la dittatura in tutto il mondo. Ma noi, il movimento Gili Arancioni, Forza Nuova ed altri movimenti, siamo già una ventina, abbiamo creato il Consiglio Globale dei Patrioti, che si oppone al nuovo ordine mondiale, e abbiamo nominato Donald Trump presidente del Consiglio Globale dei Patrioti. Nascendo una grande realtà. Non ho capito, scusa, che hanno fatto questo? Aspetta, troviamo un attimo, riavvolgiamo il nastro. Non gli fanno un favore a Trump, però, eh? No, hanno fatto un'alleanza con Forza Nuova, sì. Hanno fatto Trump presidente dei patrioti, a sua insaputa. L'hanno informato. L'americano Trump presidente dei patrioti italiani, è bellissima sta cosa. No, mondiale. Ma l'hanno informato. Ma che cazzo, mondiale. Ah, mondiale? Non gli fa l'Italia. Ecco perché noi dobbiamo entrare in campo per abbattere questo governo illegale. Dice il generale, come fa lei a risolvere la questione? Datemi il governo. Io mi porto galloni, mi porto tarro, mi porto persone in gamba. Scommettiamo che noi in 3 giorni sistemiamo tutto? Tre giorni. Okay. 3 giorni muoiono tutti. 3 giorni fa le catombe, muoiono tutti in 3 giorni. Pensate, Biden ha solamente 22.000 voti in più Trump. Non è vero. Però sono tutti voti che sono derivati dalla posta. Tutti voti truccati. E Trump dice: io mi vorrei appellare. Ma nonna mia, tutti contro. Il presidente degli Stati Uniti prende la parola e un giornalista di merda gli toglie la parola. No, uno. Tutti. Stava dicendo puttanate. Bastardi, state creando la dittatura in tutto il mondo. Ma noi del movimento Gili Arancioni, Forza Nuova ed altri movimenti, siamo già una ventina, abbiamo creato il Consiglio Globale dei Patrioti, il nuovo ordine mondiale, e abbiamo nominato Donald Trump presidente del Consiglio Globale dei Patrioti. Sta nascendo una grande realtà. No, è possibilissimo. Ragazzi, è pazzesco, ragazzi. Però dovrebbe spaventarvi il fatto che personaggi così appoggino Donald Trump, secondo me. Ma questo dovrebbe in qualche modo un po' spaventare. Sì, Willy da Bari, fermi tutti. Trump, Willy da Bari. Willy da Bari. Vai Willy. Io, fratello, senti, mi sto pisciando addosso. Quindi no, aspetta, già non sento niente, Willy. Già non sento niente. Per cui cominciamo subito malissimo. Mi senti meglio adesso? Sì, leggermente meglio. Dimmi, Willy. Dimmi. Mi sto pisciando addosso da un po'. Quindi nel mio chest non prende tanto il telefono. Quindi vattene a fanculo. Vabbè, e allora che vuoi? Crede, Willy? Ma cosa vuoi da me? Cosa? Sentire la pisciata. Andrea da Palermo, dai, Andrea da Palermo. Andrea, buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Dimmi. Io sono molto arrabbiato verso i cittadini di Trieste. Sì, che te ne frega a te, stai a Palermo e te ne frega di Trieste, dall'altra parte del mondo. Perché faccio parte, sono un cittadino italiano e sono molto arrabbiato. Com'è possibile che si permetta di dare uno stipendio a un certo Fabio Tuiak che nel 2020 esulta per gli omosessuali che vengono uccisi nel mondo? Ma non c'è uno stipendio, è un consigliere comunale. Un consigliere comunale che lo fa gratis, non l'ho capito. Prende un piccolo stipendio, dai, un piccolo stipendio. Ma lo stesso dovrebbe decadere. E allora, ma ricopre una funzione pubblica, sì o no, questo tizio? Sì, ma scusami, ma tu a Palermo non avevi ad esempio la mafia a cui pensare, oppure il problema dell'Italia? Adesso che c'entra la mafia? No, capiamoci un attimo. L'infiltrazione della mafia nel sistema politico. Ma cosa c'entra? Quello sta criticando? Sono ancora un problema o è solo Tuiak? La mafia è solo a Palermo. Ma viene da Palermo, non c'è la mafia. Ma ragazzi, ma cosa c'entra? Questo sta criticando delle frasi dette da Tuiak. E allora, cosa c'entra? Ognuno guardi a casa sua, ognuno guardi a casa propria, no? Ragazzi, qua questo tizio, un tizio che lavora per il comune, dice che non vede l'ora che la Russia invade l'Europa, così mette le leggi contro gli omosessuali. È stato eletto, purtroppo. Questo tizio veramente va dicendo che esulta quando sente che nel mondo c'è la pena di morte per gli omosessuali. Cioè, ma questo almeno è stato eletto. Questo è stato eletto almeno. Ma che c'entra, ragazzi? Non si può difendere quello che ha detto Tuiak. Andrebbe fatto decadere. Andrebbe fatto decadere la libertà di Tuiak. Difendo la libertà. No, perché decadere? Perché è incompatibile con i valori della Costituzione. No, è incompatibile con i valori della Costituzione. Deve poter dire delle cose enormi e pagarne le conseguenze. Se uno che è incompatibile con i valori della Costituzione deve decadere, non può avere un ruolo pubblico. Cioè, vi rendete conto che è saltato prima? Non c'entra niente. Cioè, esatto. L'hai saltato. Ma tu ti rendi conto che ci sono degli esponenti politici nella tua terra che vengono eletti con i voti della mafia? Mi sembra molto più pericoloso di Tuiak. Ma non c'entra nulla. Ma sta scherzando? Certo, non è un giornalista, non le fa queste cose. Ciao, perché Andrea, la mafia non c'è, la mafia non vuole pure i voti in tutta Italia. Andrea, che ciao, sono in Sicilia. Fabrizio da Genova, vai Fabrizio, dimmi. Buonasera a tutti, io sentivo uno sproloquio prima e volevo intervenire. Questo è uno sfogatoio per malati di mente, rotomani, però sugli argomenti seri bisognerebbe essere un attimino più precisi. Io sono un antiproibizionista, sono convintamente antiproibizionista. E ovviamente, vabbè, allora che cosa ovviamente, una classe dirigente penosa che evidentemente ha ha qualche problema in questo campo. Scusa, sta portando avanti a noi, una a potentissima campagna proibizionista. Scusa, che ma non a noi ha che senso. Cosa ce ne frega a noi? Ma adesso basta che vai a alle 20 e 29, che ce ne frega a noi? Io sono antiproibizionista. Ma come cazzo fai a parlare alla radio con argomenti così pazzo. Penosi? Ma questo come è pazzo. Fate? Fabrizio, adesso ti mando a fare. Adesso ti mando a fare in culo perché ma io sono. Ma siete penosi. Ma questo è un siete coglione. Penosi. Ma tu sei un. Ma tu sei un povero. Tu sei un povero malato di mente. Sei un poveretto. Certo, io sono antiproibizionista da una vita. Sono a favore della legalizzazione da una vita. Questo è talmente. Il cervello talmente in pappa che mi attacca per questa roba qua. Perché per non parliamo. Perché non parliamo. Devi drogarti. Di che cosa dovremmo parlare, Fabrizio? Non ho capito. Oh. Richiamate sto coglione dopo, dai. La zanzara. Le lecchi la figa di prima mattina, non ti lavi la faccia ed esci con la mascherina. Sentirai aroma di figa per tutto il giorno. Seguitemi per altre ricette di vita quotidiana. Arezzo Bigotto! Ma detto generale, mi scusi un po', lei si lamenta che Rai 1, Rai 2, Rai 3, Mediaset e La 7 non la invitano. E certo che mi lamento. Il 30 maggio eravamo 50.000 persone da Milano a Bari a Palermo e voi non ci calcolate, non ci chiamate. Ma che razza di servizio pubblico siete? Ma voi avete il web. Voi avete il web. Beh, sì. Perché i cialtroni sanno che i miei video sono visualizzati da 100.000 a 1 milione di persone. Comici. E questo gli brucia il sedere. Allora, in giro qui in Italia ci ma sono. Ma scusa, ma puoi spiegare al generale Pappalardo, ad esempio, che non si intervista qualcuno aspetta, sul nido del cuculo? Oh, allora, perché hai buttato giù? Non ho capito. Ma io, guarda, io sto bevendo Jack Daniels. Ma chi se ne frega di quello che stai bevendo? Ho un piccolo problema col popolino italiano. Comunque, questo è uno sfogatoio per malati di mente erotomani. Per quello che hai chiamato. Non so che. Sei, ma tu sei un poveraccio, ma sei un meschinetto. Sei un cervello bruciato dalla droga e dall'alcol. Non è evidente che sei bruciato sei un meschinetto. Allora, fate parte, che lo dici? Fate parte di questa classe dirigente penosa. Io vi sto ad ascoltare e mi domando come cazzo fate a campare. Ma a chi ti stai rivolgendo, scusa? A tutti. A tutti chi? A voi tre. Siete in tre, no? E allora? Siete come gli Emerson, Lake and Palmer. E allora? Siete in tre. E allora? Niente. Basta così, per me può finire qui. Ma cosa può finire? Parlava di droga, di antiproibizionismo, di cosa parlavi? Quanta droga ti sei fatto nella tua vita? Tantissima, oltre all'alcol, evidentemente. E mette giù. Michele da Roma. Intanto l'ex generale dei Carabinieri, quello che ha fatto quella figura di merda nella trasmissione della Rai, e poi anche da Giletti dicendo che stava male, forse è stato drogato, dice che dava fastidio alla massoneria. Volevano eliminarmi, non potendo uccidermi, mi hanno screditato. Ti giuro, ha detto così. Volevano eliminarmi. Io sto rivalutando la massoneria. Se è così, lunga vita la massoneria. Roba da pazzi. Dimmi, Michele, dimmi. Giuseppe, buonasera. Dimmi. Volevo dire che quella persona che tu hai attaccato prima hai detto che è cretino. Tanto cretino non è, perché effettivamente Parenzo tanto bene di mente non sta. Giusto per Parenzo, non ho capito il paragone. Non ho capito il paragone. No, vabbè, comunque al di là di questo, io sono d'accordo. Ma non ho capito di cosa parli. Cosa ti riferisci? A quello di prima, dai, Michele, vai avanti, su, forza. Soltanto che secondo me. Il paragone della vittoria di Biden con il 25 aprile è assolutamente giusto, perché giusto. È un giorno di merda come tutti i 25 aprile, che è una festa inutile. Tu dici, essendo tu, odiando tu il 25 aprile, dici, essendo allora, fascista, essendo un po' fascista evidentemente, certo. perché se, evidentemente sostieni che è un giorno di merda. Chiaro. Penso, esatto, penso. Esattamente. Tutto torna. Non ho altre domande. Ciao Michele, ciao. Ciao Giuseppe. Allora, ragazzi, vi leggo uno scritto. Molta gente tende a pensare che una coppia aperta, disinibita e che ama concedersi di tanto in tanto una serata trasgressiva in compagnia di altre persone abbia una relazione che ha poco a che vedere con l'amore vero. Cioè voi due, per esempio, tu, Parenzo, Gottardo, pensate, no, aiuto niente. Cioè, pensate che le coppie, ripeto, aperte, disinibite, eccetera, non abbiano in fin dei conti un rapporto amoroso, un rapporto di amore. Ma guarda, aspetta, io più che altro provo invidia nei confronti di questi che riescono a organizzarsi. Aspetta, cioè, come il cazzo fanno? Nulla di più sbagliato, naturalmente. Soprattutto perché i tassi di divorzio tra coppie scambiste sono più basse rispetto a quelle tradizionali. Questo è il punto. È questo chi lo dice? Divorziano di meno. Chi lo dice? Hai chiamato Pagnoncelli per farti fare un sondaggio? Meno, divorziano ma chi, domeno. Ma, chi detto? Boh. Ma chi assolutamente detto? Così, ci sono le statistiche qua, il centro studi Cruciani. Le coppie scambiste divorziano molto meno, soprattutto perché i due partner hanno una profonda fiducia l'uno nell'altro, possono permettersi il lusso di concedere più libertà all'altro senza gelosie, senza paura che una persona possa allontanarsi. Ma io dico, se vi piace così fate più. Ma io è così, ma l'infedeltà è la prima causa di divorzio. Se tu togli l'infedeltà nel rapporto di coppia, è evidente che nella coppia scambista non è più un rapporto di coppia, però ma non che è più cazzo di coppia, dici? È ma un non rapporto, un groupage, no? Ma che è un autobus, dici? Non è più una coppia, dai. Esattamente. Quell'altra che si prende due carte alla volta per sette, non è più una coppia. Allora, abbiamo in collegamento la signora Squirty Angel. Buonasera, buonasera, buonasera. Come andiamo? Lei fa parte di una coppia scambista però, mi sembra. Sì, esattamente sì. Quanti anni hai, Squirty? Bene. Io 44. Dunque, da quanto siete scambisti con il tuo compagno? Da una decina d'anni. Che cosa fate esattamente? Diciamo, siete nei siti, fate scambismo per i cazzi vostri, con amici fidati? Un po' di tutto. Si inizia coi siti, poi una volta che inizi a conoscere, giri, vai nei locali, vai alle feste. Cioè, tu non provi nessun tipo di gelosia a vedere il tuo compagno che scopa con altre donne? No, anzi, sei contenta? No, a me eccita, anzi, mi eccita da morire. Sei contenta e ti eccita da morire. Mi faccia capire qual è una serata tipo, signora. E viceversa, immagino. Viceversa. Lei, il sabato, anziché io ad esempio con Natalia, il sabato ogni tanto vado al cinema o a casa di altri amici. Invece lei, il sabato, cosa fa? Prende suo marito e dice andiamo a fare uno scambio di coppia. O il suo compagno, non lo so, corretto. Eccetera, così, magari fanno un'orgia in 4 o 5, giusto? Si organizzano feste in casa, si organizzano feste, si mangia e si tromba tantissimo. Ma in quanti sono questi scambi? In quanti siete in genere, signora? Vabbè, dipende, nel senso che alle volte siamo solo in 4, alle volte siamo in 6, alle volte siamo in 10. Certo. Ma scusa, ma qual è il problema? Io non ho capito, ma qual è il problema? Io non voglio tornare, dico che non lo farei, ma voglio dire dove. Ma per chi ha votato, signora, lei alle ultime elezioni? Posso chiederglielo? Per chi ha votato? Per Salvini, scusate, perfetto. Ma sono un attimino in difficoltà. Ma no. Scusi, signora, no, come fai? Le ho chiesto per chi vota. Signora, fa degli assembramenti con 10 persone mentre suo marito si trova in difficoltà perché sei in difficoltà? Che c'hai? Aspetta, le perché mette 10 corna al perché minuto. Sei in difficoltà? Che cosa c'hai? Che cosa? No, ho un ovetto che mi vibra nella figa, per quello che sono in difficoltà. Ah, hai un ovetto che ti vibra nella figa. Però no, scusami, perché tu tra l'altro, fammi sentire un attimo il rumore, scusami, dell'ovetto. Quando tippano lo senti, finché non tippano. Avvicina un attimo il telefono alla figa, scusami. Guarda. Avvicina, senza parlare, avvicina il telefono alla figa, magari aspetta, sento. Aspetta, fammi sentire. Mamma mia. Fammi sentire. Non si sente? Lo senti? No, non sento. Vabbè, evidentemente è molto dentro. Perché la signora dentro. Squirty Angel, che evidentemente dal nome è una che squirta molto, ma signora, non so se. Bravo, la chiamerei signora. Comunque. Scusami, questa squirtata che tu fai è particolarmente potente? Noi ne abbiamo ascoltati tutti i colori qui, oppure è una cosa particolare, oppure è normale, diciamo? No, è una cosa molto particolare, sì. È perché? Perché è proprio un getto tipo fontana, hai presente la fontana di Ginevra? Ecco, una cosa del genere. Ma tu, lo, fai, ma tu lo fai perché lo, magari lo vendi nelle tue cam, no? No, allora è nata così, io lo faccio perché mi piace e poi da lì diciamo che ho detto ma perché non sfruttare la cosa e quindi ho detto e quindi lo fai in cam girl, qualcuno paga per vederti squirtare, mi sembra di capire. Sono in cam anche adesso. Sei in cam adesso con un ovetto, con un ovetto mentre parli con noi, con un ovetto dentro la figa. Perché tu nelle cam utilizzi anche vari dildo vibranti che si mettono diversi, sì, perché c'è l'ovetto che è la cosa più piccola, poi c'è un cazzo doppio che vibra sul clitoride e vibra nella figa. Culo, dipende dove lo metti. Ma pensa che ambiente, ma pensa un po'. No, no, ma è stupendo, dimmi, è bellissimo. Ma te li chiedono, il microfono è interessante. Te li chiedono esplicitamente? Ma per esempio, il tuo microfono, no? Se venissi io lì, potrei equivocare la cosa, perché sono abituato a infilarmelo nel culo quello che ho io. Saranno contenti alla radio. Guarda, se non ci fosse il Covid, se non ci fosse il Covid, guarda, te lo farei fare molto volentieri. Sono gli unici casi in cui uno dice meno male che c'è il Covid, l'unico caso al mondo, diciamo. Però scusami un attimo, tu hai anche dei dildo molto che allargano molto il culo? Io sì, perché stando in cam poi bisogna un po' anche accettare i suggerimenti, no? dei tuoi clienti, diciamo così. Ce n'era uno in particolare che era fissato con i cavalli e quindi per farlo contento mi sono comprato un dildo da cavallo. Come, che vuol dire un dildo da cavallo? È il dildo che è stato creato sul calco del cazzo di un cavallo. Allora? E dove te l'ha fatto mettere questo qua? Pagando, ovviamente. Dappertutto, ovviamente. Quanto durano queste sessioni? Ma cosa c'è da ridere? No, ma come da ridere? Da morire dalla risata? Quanto durano queste sessioni, Squirty? Quanto durano? Sì. Scusate. Che è successo? Mi stanno bippando. Ti stanno bippando in questo momento? Perché chi lo sta manovrando questo ovetto che c'è nella figa? In questo momento un tizio che si chiama Sla Marco. E te lo sta facendo vibrare ancora o no? Tutte le volte che lui manda un token, si chiama così, sì, ti vibra. Vibra in base a quanti token ha. Sono, vibra di più e più più spende lui naturalmente. È un jukebox praticamente. Scusa, quanto può costare una cosa del genere? Cioè vederti all'opera in cam, per esempio, o con un vibratore da cavallo oppure con un vibratore di quelli che hai adesso? Allora, quello da cavallo costa un po' di più perché mi fa un po' male, quindi secondo dove devo infilarlo ovviamente. Ma tu sei abbastanza larga dietro, avrai un dilatatore con cui... No, diciamo che io sono molto allenata dietro, molto allenata, però il cazzo di un cavallo è il cazzo di un cavallo, quindi per farlo che dimensioni ha un cazzo di un cavallo rispetto a quello umano? Quanto più è lungo, è largo, immagino. È molto lungo e molto largo e poi ha il glande che è quella orella intorno alla cappella, per capirci, è molto accentuata ed è quello il problema. È quello che fa male, diciamo, quello che fa male. Senti, non ho capito, allora il costo di far vibrare quello che hai dentro in questo momento, quant'è? In realtà, guarda, un token costa 10 centesimi, quindi non è così. Però uno può arrivare. È come il carrello della spesa, praticamente. Invece di metterlo nel carrello della spesa, lo mette nel culo della quello costa un euro, veramente. Quanto può spendere uno che ti chiede di far vibrare una cosa? Può spendere puoi spendere 10 euro come 150, dipende da quanto ti vuoi. Ma chi uno deve spendere 10 euro? Non ho mica capito io. Cioè, uno deve spendere 10 euro per vedere in cam una bella figa bionda, perché Squirty Angel è così, che si mette dentro un vibratore e quello evidentemente si fa una sega. Perché non va al cinema? Perché quello vuole farsi una sega davanti a Squirty Angel. Ci sarà qualcuno che va al cinema e c'è qualcuno che si fa una sega davanti a una cam girl. Ma se comprasse un libro, mi pare libertà, mi pare grande libertà. Quanto riesce a guadagnare con le girl, con le cam? Beh, dipende, non è più o meno uguale. In media, comunque, in facciamo una media di $50 all'ora. $50 all'ora, dunque al giorno poco. Quanto riesce a fare? 100, $200, dipende. Cazzo, $100-$200 al giorno è bella roba. Ci stai pensando, Cruzani? No, non ci sto pensando. Guarda, se vuoi venire magari facciamo coppia, funziona parecchio. Per il momento un altro lavoro. Non disprezzo nessun lavoro. Ma anch'io un altro lavoro, un passatempo, dai. Che fai tu? Che fai come lavoro? Dito da cavallo, Cruciani. Sì, sicuro. No, magari lui col dito da cavallo non credo che abbia il sederino abbastanza allenato, però mai si può lavorare, mai. Dai. Che fai come lavoro? Scusa, Squirti, come fai come lavoro principale? Non lo posso dire, è un lavoro normalissimo. Sono 6 ore al giorno, tranquille. Ma un lavoro... fai anche pissing in cam? Faccio anche pissing, certo. Ragazzi, piace tantissimo. Tutto. Comunque, vediamo un po', arriva l'altro token o no? L'altro token? No, adesso no. Adesso no, c'hai sempre dentro il... Per ora ce n'ho solo uno in figa, poi tra un po' ne metto un altro nel culo. Vabbè. Evviva, italiani! Ciao amica mia, italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.